Avviciniamo allora X, le 14, orario ufficiale, ma chiaramente insomma questa lunga giornata notava è iniziata molto molto prima. Allora siamo ancora di nuovo al telefono con un'altra compagna che si è recata lì. E allora, dove sei tu? Raccontaci. Allora sì, io mi trovo in questo momento praticamente alla testa del corteo che è partito da una decina di minuti dalla stazione di Bussoleno, con una grande insomma partecipazione di non solo di diversi comitati chiaramente che animano la lotta nottata in Val di Susa, ma anche di moltissime altre realtà nazionali e locali che hanno deciso di aderire a questa giornata appunto di mobilitazione nazionale che come ci diceva anche il compagno prima in diretta sì, in risposta chiaramente agli arresti che sono avvenuti appunto nella giornata del 26 gennaio scorso, ma è anche un momento di rilancio proprio della lotta NOTAV a livello nazionale. Volevo un po' visto che è anche una bella giornata, insomma, restituirvi anche il clima che si respira qui in piazza. Alla destra del corteo ci sono i gonfaloni insomma delle varie comunità montane della Val di Susa, i sindaci insomma che da anni portano avanti anche diciamo così a livello istituzionale le loro insomma, la battaglia NOTAV, e poi ci sono le varie anime insomma del movimento NOTAV. In particolare quest'anno c'è un carro, visto che siamo a poco tempo insomma di distanza dal carnevale, un carro allegorico che rappresenta tutte diciamo le forze che stanno premendo in questo momento sulla Val di Susa, quindi il governo italiano con le dichiarazioni di Monti anche questa mattina chiaramente ha ricordato quanto sia necessaria questa opera perché è l'Europa stessa che ce la chiede, per cui c'è raffigurata Angela Merkel, insomma il governo europeo e quello italiano che insieme appunto riuniti in questa piovra simbolica stanno mettendo le mani appunto sulla Val di Susa. E tutto questo mentre Napolitano rimane a guardare insomma quasi a benedire tutta questa operazione. Sì, infatti magari rimanesse a guardare, sembra più che benedica e che apra le braccia accogliendo, no? Esatto, quindi sì, esatto, a benedire, ecco, ad accogliere questa ulteriore anche militarizzazione del territorio, perché l'annuncio appunto dell'ulteriore allargamento delle reti di martedì seguirà una fase anche di riapertura di quella appunto presenza delle forze dell'ordine che già sono appunto fortemente, come dire, attive vicino alla baita di Clarea, appunto vicino alle reti che dovrebbero delimitare teoricamente il cantiere. E quindi una ripresa anche della necessità di ritrovarsi, no, in valle, di prendere anche un presidio diciamo fisico, no? L'inverno è passato e adesso mi sembra chiaro che momenti d'entusiasmo un tunnel, quindi ok, se vuoi ci risentiamo dopo per non passare questa fase di caos, anche se dalla stazione di Giaglione, dove ci siamo troviamo in questo momento, a Giaglione è appunto uno dei presidi NOTAV che in questi ultimi anni sono stati anche maggiormente coinvolti, perché è lì che si è aperto uno diciamo dei varchi, tra virgolette, dei cantieri NOTAV. Ecco, questo appunto per descrivervi appunto la testa del corteo. So che altri compagni invece sono un po' dislocati, insomma, anche dalla radio, in altri punti della manifestazione, che sta procedendo insomma chi con le biciclette, chi a piedi, chi con le parrucche di carnevale, insomma sta andando avanti verso Susa appunto. Va bene, io ti ringrazio, quindi avremo modo di sentirci nel corso del corteo, e appunto poi se tu hai poi persone da intervistare, ormai abbiamo aperto questo meccanismo da diretta, e allora grazie e ci sentiamo tra poco. Grazie a voi, un abbraccio. Un abbraccio, ciao.